2 febbraio del 2026. Lights are flashing, cars are crashing. Inizia Disorder anche per oggi, dunque uno spazio che andrà avanti sino alle 23 circa. Il sito della radio è www.ondarossa.info. E prima di iniziare, i consueti saluti a tutti quelli connessi su queste frequenze e sul nostro web. Saluto Maya, che ci sta ascoltando dall'Umbria, Tiziano Zeno Farinacci, di P. Greco. Un saluto a Tabula Rasa, a Cortina d'Ampezzo, Maralas in Sardegna di Calitis, Hans Bakovic del progetto Krur. Bruno Pallotto di Birrudrum, saluto a Ilaria Olevano Romano, al medico della peste, progetto Noise, Mariano Niterri, anche lui ci sta ascoltando qui da Roma. Marco Magia di Progetto Sonoro, Simone Scalite di Audio Chaos. Massimo Santoro a Torino. Un saluto anche a Angie Sellarione Angela. Dunque, già vi ringrazio di stare qui connessi all'ascolto e segnalate casomai se c'è qualche problema a livello di suoni, di voce e di streaming. E allora scaldiamo i motori e andiamo ad iniziare, e lo facciamo con un progetto di area più o meno neofolk proveniente proprio qui da queste parti. Sto parlando del Canto di Vesta del buon Chris Florido. Saluto anche lui all'ascolto. E da qualche giorno ha stampato un altro mini, un altro 4 tracce che porta il nome della Fine del Giorno. E quindi lo cominciamo a conoscere con Presagi e Lucciole. Presagi che il fato ti soffia sul viso, intrisi di dubbi su un prato remoto. È il rannicchiarsi, è l'annullarsi, è il dondolio che mitiga i sensi. Presagi che il bosco ti legge nell'alma, trascina figure che un angolo adorna. È il percepire, è il tramandare, lo scricchio io in un antro di fiere. Sì, il centro dell'esistenza sostanza. Intrigo nell'incoscienza speranza. Sì, il centro dell'esistenza sostanza. Tu intrigo nell'incoscienza speranza. brontolio che albeggia tra i monti, paesaggi disperi, ti disegna una fiaba, conclude una trama su pagina vuota, è il desiderare, è il tramontare, elaborato tutto che non vuol via volare, sì, il centro dell'esistenza sostanza. Nell'incoscienza speranza, sì, il centro dell'esistenza sostanza, tu intrigo nell'incoscienza speranza. Abbiamo cominciato a conoscere questa ultima fatica del Canto di Vesta di Chris Florido, progetto di area più o meno folk qui di Roma. C'è anche un po' di Branduardi, se vogliamo, e credo che il buon Chris Florido sia d'accordo su ciò che ho affermato orora. Sto giaciglio muta, questa sera ci siamo ascoltati Presagi e Lucciole, e il prossimo lunedì ci andremo ad ascoltare le altre due tracce di questo La fine del giorno. C'è un bel sito Bandcamp, pagina Bandcamp del Canto di Vesta, dove ci sono anche i lavori del passato. A concludere questo fine settimana, sabato prossimo il Canto di Vesta suonerà qui a Roma insieme a Albireon, quindi per gli amanti del neofolk è un appuntamento, diciamo, abbastanza sfizioso. Riflessi in una croce corrotta, stanze di mute pareti. Saluto Anna qui a Roma. Nei quadri, libri in vetrina custodi. e rimaniamo più o meno da queste parti e lo facciamo con un esordio discografico, un esordio artistico se vogliamo, e sto parlando dei Dear Company di Elisa Panbianchi e Martino Cappelli, musicisti impegnati anche in altrove, la porta ermetica per quanto riguarda Elisa e Martino. Lo stesso Martino poi suona, se non erro, anche con gli Indaco, che insomma è un bel punto di riferimento musicale in attività da tanti tanti anni, e dove ha suonato in passato anche Rodolfo Maltese, quello che fu un splendido chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso. Questo mini album, definiamolo così, è composto di 5 pezzi e ci andiamo ad ascoltare En Hod Tu e poi Beyond. Eccoli qua dunque, Dear Company. Just as dark as all I see, just a quiet nightmare, just as lonely as it can be, just a quiet lifetime. esordio dunque per quanto riguarda questi Dear Company, progetto romano con Elisa Pambianchi alla splendida voce, Martino Cappelli, chitarra e non solo. Mi rendo conto che le definizioni in musica possono risultare talvolta limitanti, ma qui ci stiamo muovendo in un ambito, ritengo, che va dal trip hop fino al post rock in questo Scratches. E qualcuno si ricorderà naturalmente anche i Pindar di Milano. Anche loro si muovono più o meno con queste, su queste coordinate sonore. Quindi due passaggi per questa sera e un altro ascolto lo faremo anche il prossimo lunedì. Dunque Scratches, che si può trovare in varie piattaforme, tra cui Spotify. Andiamo avanti, sempre Italia, ma ci spostiamo al nord, andiamo in Liguria, andiamo dalla Furna, la Furnasetta. Il suono qui diventa più cupo e introspettivo, claustrofobico, anche se con una forte componente elettronica. Something Wicked the Wiz, This Way Comes, è il titolo di questo mini della Furnasetta. E questa sera estraiamo From Crust to Dust e View from the Bridge. Yeah. dal grembo oscuro sorge la carne, modellata in silenzio, destinata al disfacimento, un atto senza testimoni, un seme gettato nell'aridità del tempo. Non c'è luce nel venire, solo il peso, un essere imposto, un moto che non conosce scopo, un filo che si tesse solo per essere spezzato. L'alba stessa è un tradimento, la promessa muta di un ciclo vano, di respiri raccolti come cenere al vento. L'uomo nasce già perso, un'ombra in cerca di senso, nel teatro vuoto dell'inevitabile. E così il primo respiro è già un commiato, un sussurro di ciò che non sarà mai. L'universo guarda e lo vede, la nascita è silenzio che torna al silenzio. Sanguina il tempo, goccia dopo goccia, e con esso marcisce il tuo nome, il tuo volto, il tuo fragile rifugio di ossa e carne. C'è salvezza, e redenzione, solo il lento collasso del tutto in un nero senza fondo. Ogni aspirazione, ogni preghiera, si infrange contro il silenzio, perché il vuoto non risponde, così ti consumi, danzi la tua insignificanza al teatro della putrefazione, e alla fine non resta più nulla, spettatore eterno, sazio di ogni speranza. E alla fine, quando l'ultimo battito si spegne e l'eco del tuo esistere si dissolve, non c'è memoria, non c'è traccia, solo il nulla che riassorbe il tuo peso, indifferente alla tua lotta, alla tua agonia, alla tua presunzione di essere. In quel silenzio totale, la verità si rivela. Non sei mai stato altro che un sogno effimero dell'oscurità. Anche per questa sera un passaggio di La Furnasetta, questa Something Wicked This Way Comes, che esce per la Masked Dead Record, una label interessante e coraggiosa. Anche questa è un'etichetta italiana. Album introspettivo che andrebbe bene in una dimensione anche di prove tecniche di trasmissione, effettivamente. Questo industrial melmoso, elettronico ma melmoso. E intanto sono scoccate le ore 22 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. E adesso ci inoltriamo in un'operazione sempre di origine italiana, con una compilation dal nome Data Panic numero 6, e Data Panic è stata una ed è una serie di compilation da tutti